Capitolo terzo dei Canti Orfici. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Canti Orfici di Dino Campana. Capitolo terzo. Laverna. Primo. Laverna. Diario. 15 settembre per la strada di Campigno. Tre ragazze e un ciuco per la strada mulattiera che scendono, i complimenti vivaci degli stradini che riparano la via, il ciuco che si voltola in terra, le risa, le imprecazioni montanine, le rocce e il fiume. Castagno, 17 settembre. La Falterona è ancora avvolta di nebbie. Vedo solo canali rocciosi che le venano i fianchi e si perdono nel cielo di nebbie che le onde alterne del sole non riescono a diradare. La pioggia ha reso cupo il grigio delle montagne. Davanti alla fonte hanno stazionato a lungo i castagnini, attendendo il sole, aduggiati da una notte di pioggia nelle loro stamberghe allagate. Una ragazza in ciabatte passa che dice rimessamente: «Un giorno la piena ci porterà tutti». Il torrente gonfio nel suo rumore cupo commenta tutta questa miseria. «Guardo presso le rocce ripide della Falterona. Dovrò salire, salire». Nel presbiterio trovo una lapide ad Andrea del Castagno. Mi colpisce il tipo delle ragazze, viso legnoso, occhi cupi incavati, toni bruni su toni giallognoli. Contrasta con una così semplice antica grazia toscana del profilo e del collo che riesce a renderle piacevoli. Forse. Come differente la sera di Campigno. Come mistico il paesaggio, come bella la povertà delle sue casupole. Come incantate erano sorte per me le stelle nel cielo dallo sfondo lontano dei dolci avvallamenti dove sfumava la valle barbarica, donde veniva il torrente inquieto e cupo di profondità. Io sentivo le stelle sorgere e collocarsi luminose su quel mistero. Alzando gli occhi alla roccia a picco altissima che si intagliava in un semicerchio dentato contro il violetto crepuscolare, arco solitario e magnifico teso in forza di catastrofe sotto gli ammucchiamenti inquieti di rocce all'agguato dell'infinito, io non ero rapito di scoprire nel cielo luci, ancora luci. E, mentre il tempo fuggiva invano per me, un canto, le lunghe onde di un triplice coro salienti a lanci la roccia, trattenuta ai confini dorati della notte dall'eco che nel seno petroso le rifondeva allungate, perdute. Il canto fu breve, una pausa, un commento improvviso e misterioso e la montagna riprese il suo sogno catastrofico. Il canto breve. Le tre fanciulle avevano espresso disperatamente nella cadenza millenaria la loro pena breve ed oscura e si erano taciute nella notte. Tutte le finestre nella valle erano accese. Ero solo. Le nebbie sono scomparse. Esco. Mi rallegra il buon odore casalingo di spigo e di lavanda dei paesetti toscani. La chiesa ha un portico a colonnette quadrate di sasso intero, nudo ed elegante, semplice e austero, veramente toscano. Tra i cipressi scorgo altri portici. Su una costa una croce apre le braccia ai vastissimi fianchi della Falterona, spoglia di macchie, che scopre la sua costruttura sassosa. Con una fiamma pallida e fulva bruciano le erbe del camposanto. Sulla Falterona, giogo. La Falterona verde, nero e argento, la tristezza solenne della Falterona che si gonfia come un enorme cavallone pietrificato che lascia dietro a sé una cavalleria di screpolature, screpolature e screpolature nella roccia fino ai ribollimenti arenosi di colline laggiù sul piano di Toscana. Castagno, casette di macigno disperse a mezza costa, finestre che ho visto accese, così alle creature del paesaggio cubistico in luce appena dorata di occhi interni, tra i fini capelli vegetali, il rettangolo della testa in linea occultamente fine, dai fini tratti, traspare il sorriso di cerere bionda, limpidi sotto la linea del sopracciglio nero i chiari occhi grigi, la dolcezza della linea delle labbra, la serenità del sopracciglio, memoria della poesia toscana che fu. Tu già avevi compreso, o Leonardo, o divino primitivo. Campigna, foresta della Falterona. Le case quadrangolari in pietra viva costruite dai Lorena restano vuote e il viale dei Tigli dà un tono romantico alla solitudine dove i potenti della terra si sono fabbricate le loro dimore. La sera scende dalla cresta alpina e si accoglie nel seno verde degli abeti. Dal viale dei Tigli io guardavo accendersi una stella solitaria sullo sprone alpino e la selva antichissima addensare l'ombra e i profondi fruscii del silenzio. Dalla cresta acuta del cielo, sopra il mistero assopito della selva, io scorsi, andando per il viale dei Tigli, la vecchia amica luna che sorgeva in nuova veste rossa di fumi di rame, e risalutai l'amica senza stupore, come se le profondità selvagge dello sprone l'attendessero levarsi dal paesaggio ignoto. Io per il viale dei Tigli andavo intanto difeso dagli incanti, mentre tu sorgevi e sparivi, dolce amica luna, solitario e fumigante vapore sui barbari recessi. E non guardai più la tua strana faccia, ma volli andare ancora a lungo per il viale, se udissi la tua rossa aurora nel sospiro della vita notturna delle selve. Stia, 20 settembre. Nell'albergo un vecchio milanese cavaliere parla dei suoi amori lontani a una signora dai capelli bianchi e dal viso di bambina. Lei calma, gli spiega le stranezze del cuore. Lui ancora stupisce e si affanna, qua nell'antico paese chiuso dai boschi. Ho lasciato Castagno, ho salito la Falterona lentamente seguendo il corso del torrente Rubesto. Ho riposato nella limpidezza angelica dell'alta montagna, addolcita di toni cupi per la pioggia recente, ingemmata nel cielo coi contorni nitidi e luminosi che mi facevano sognare davanti alle colline dei quadri antichi. Ho sostato nelle case di campigna, son sceso per interminabili valli selvose e deserte, con improvvisi sfondi di un paesaggio promesso, un castello isolato e lontano, e alfine Stia, bianca elegante tra il verde, melodiosa di castelli sereni, il primo saluto della vita felice del paese nuovo, la poesia toscana ancor viva nella piazza sonante di voci tranquille, vegliata dal castello antico, le signore ai balconi poggiate il puro profilo languidamente nella sera, l'ora di grazia della giornata, di riposo e di oblio. Al di fuori si è fatta la quiete. Il colloquio fraterno del cavaliere continua. Comme deux ennemis rompus, que le reine ne soutient plus, e chi laisse tomber leurs armes. 21 settembre, presso la Verna. Io vidi dalle solitudini mistiche staccarsi una tortora e volare distesa verso le valli immensamente aperte. Il paesaggio cristiano segnato di croci inclinate dal vento ne fu vivificato misteriosamente. Volava senza fine sull'ali distese, leggera come una barca sul mare. Addio, colomba, addio. Le altissime colonne di roccia della Verna si levavano a picco grigie nel crepuscolo, tutt'intorno rinchiuse dalla foresta cupa. Incantevolmente cristiana fu l'ospitalità dei contadini là presso. Sudato mi offersero acqua. In un'ora arriverete alla Verna, se Dio vuole. Una ragazzina mi guardava con gli occhi neri un po' tristi, attonita sotto l'ampio cappello di paglia. In tutti un raccoglimento inconscio, una serenità conventuale, addolciva a tutti i tratti del volto. Ricorderò per molto tempo ancora la ragazzina e i suoi occhi consci e tranquilli sotto il cappellone monacale. Sulle stoppie interminabili, sempre più alte, si alzavano le torri naturali di roccia che reggevano la casetta conventuale rilucente di dardi di luce nei vetri occidui. Si levava la fortezza dello spirito. Le enormi rocce gettate in cataste da una legge violenta verso il cielo, pacificate dalla natura prima che le aveva coperte di verdi selve, purificate poi da uno spirito d'amore infinito. La meta che aveva pacificato gli urti dell'ideale che avevano fatto strazio, a cui erano sacre pure supreme commozioni della mia vita. 22 settembre, La Verna. Francesca B. O divino Santo Francesco, pregate per me peccatrice. 20 agosto 1809. Me ne sono andato per la foresta con un ricordo risentendo la prima ansia. Ricordavo gli occhi vittoriosi, la linea delle ciglia, forse mai non aveva saputo. Ed ora la ritrovavo al termine del mio pellegrinaggio che rompeva in una confessione così dolce, lassù, lontano da tutto. Era scritta a metà del corridoio dove si svolge la via Crucis della vita di San Francesco. Dalle inferriate sale l'alito gelido degli antri. A metà, davanti alle semplici figure d'amore, il suo cuore si era aperto ad un grido, ad una lacrima di passione. Così il destino era consumato. Antri profondi, fessure rocciose, dove una scaletta di pietra si sprofonda in un'ombra senza memoria, ripidi colossali bassorilievi di colonne nel vivo sasso. E nella chiesa l'angiolo, purità dolce che il giglio divide, e la Vergine eletta, e un cirro azzurreggia nel cielo, e un'anfora classica rinchiude la terra ed i gigli, che appare nello scorcio giusto in cui appare il sogno, e nella nuvola bianca della sua bellezza, che posa un istante il ginocchio a terra, lassù, così presso al cielo. Stradine solitarie, tra gli alti colonnari d'alberi, contente di una lieve stria di sole. Finché io là giunsi, in dove avanti a una vastità velata di paesaggio, una divina dolcezza notturna mi si discoprì nel mattino, tutto velato di chiarie il verde, sfumato e digradante all'infinito, e pieno delle potenze delle sue profilate catene notturne. Caprese, Michelangelo, colei che tu piegasti sulle sue ginocchia stanche di cammino, che piega e non posa, nella sua posa arcana come le antiche sorelle, le barbare regine antiche sbattute nel turbine del canto di Dante, regina barbara sotto il peso di tutto il sogno umano. Il corridoio, alitato dal gelo degli antri, si veste tutto della leggenda francescana. Il santo appare come l'ombra di Cristo rassegnata, nata in terra d'umanesimo, che accetta il suo destino nella solitudine. La sua rinuncia è semplice e dolce, dalla sua solitudine intona il canto alla natura con fede, frate sole, suor acqua, frate lupo. Un caro santo italiano. Ora hanno rivestito la sua cappella scavata nella viva roccia. Corre tutto intorno un tavolato di noce dove con malinconia potente un frate da Bibbiena intarsiò mezze figure di santi monaci. La semplicità bizzarra del disegno bianco risalta quando l'oro del tramonto tenta di versarsi dall'invetriata prossima nella penombra della cappella. Acquistano allora quei sommari disegni un fascino bizzarro e nostalgico. Bianchi sul tono ricco del noce sembrano rilevarsi i profili ieratici dal breve paesaggio claustrale da cui sorgono decollati. Figure di una santità fatta spirito, linee rigide, enigmatiche di grandi anime ignote. Un frate decrepito nella tarda ora si trascina nella penombra dell'altare, silenzioso nel saio villoso, e prega le preghiere d'80 anni d'amore. Fuori il tramonto si intorbida. Strie minacciose di ferro si gravano sui monti prospicenti lontane. Il sogno è al termine, l'anima improvvisamente sola cerca un appoggio, una fede nella triste ora. Lontano si vedono lentamente sommergersi le vedette mistiche guerriere dei castelli del Casentino. Intorno è un grande silenzio, un grande vuoto nella luce falsa dai freddi bagliori che ancora guizza sotto le strette della penombra. E corre la memoria ancora alle signore gentili dalle bianche braccia, ai balconi laggiù, come in un sogno cavalleresco. Esco, il piazzale è deserto. Seggo sul muricciolo, figure vagano, facelle vagano e si spengono. I frati si congedano dai pellegrini, un alito continuo e leggero soffia dalla selva in alto, ma non si ode né il frusciare della massa oscura né il suo fluire per gli antri. Una campana dalla chiesetta francescana tintinna nella tristezza del chiostro. E pare il giorno dall'ombra, il giorno piagner che si muore. Secondo ritorno. Salgo nello spazio, fuori del tempo. L'acqua, il vento, la sanità delle prime cose, il lavoro umano sull'elemento liquido, la natura che conduce strati di rocce su strati, il vento che scherza nella valle, ed ombra del vento la nuvola, il lontano ammonimento del fiume nella valle, e la rovina del contrafforte, la frana, la vittoria dell'elemento, il vento che scherza nella valle. Sulla lunghissima valle che sale in scale, la casetta di sasso sul faticoso verde, la bianca immagine dell'elemento, la tellurica melodia della falterona, le onde telluriche. L'ultimo asterisco della melodia della falterona si inselva nelle nuvole. Sulla costa lontana traluce la linea vittoriosa dei giovani abeti, l'avanguardia dei giganti giovinetti serrati in battaglia, felici nel sole lungo la lunga costa torrenziale. In fondo, nel frusciar delle nere selve, sempre più avanti accampanti lo scoglio enorme che si ripiega grottesco su se stesso, pachiderma a quattro zampe sotto la massa oscura, l'Averna. E varco, Campigno, paese barbarico, fuggente, paese notturno, mistico incubo del caos. Il tuo abitante porge la notte dell'antico animale umano nei suoi gesti. Nelle tue mosse montagne l'elemento grottesco profila. Un gaglioffo, una grossa puttana fuggono sotto le nubi in corsa. E le tue rive bianche come le nubi, triangolari, curve come gonfie vele, paese barbarico, fuggente, paese notturno, mistico incubo del caos. Riposo ora per l'ultima volta nella solitudine della foresta. Dante, la sua poesia di movimento, mi torna tutta in memoria. O pellegrino, o pellegrini che pensosi andate. Catrina, bizzarra figlia della montagna barbarica, della conca rocciosa dei venti, come è dolce il tuo pianto, come è dolce quando tu assistevi alla scena di dolore della madre che aveva morto l'ultimo figlio. Una delle pie donne a lei d'intorno, inginocchiata, cercava di consolarla, ma lei non voleva essere consolata, ma lei, gettata a terra, voleva piangere tutto il suo pianto. Figura del ghirlandaio, ultima figlia della poesia toscana che fu, tu scesa allora dal tuo cavallo, tu allora guardavi, tu che nella profluvia ondosa dei tuoi capelli salivi, salivi con la tua compagnia, come nelle favole d'antica poesia, e già dimentica dell'amor del poeta. Monte Filetto, 25 settembre. Un usignolo canta tra i rami del noce, il poggio è troppo bello sul cielo troppo azzurro. Il fiume canta bene la sua cantilena. È un'ora che guardo lo spazio laggiù e la strada a mezza costa del poggio che vi conduce. Quassù abitano i falchi. La pioggia leggera d'estate batteva come un ricco accordo sulle foglie del noce. Ma le foglie dell'acacia, albero caro alla notte, si piegavano senza rumore, come un'ombra verde. L'azzurro si apre tra questi due alberi, il noce è davanti alla finestra della mia stanza. Di notte sembra raccogliere tutta l'ombra e curvare le cupe foglie canore come una messe di canti sul tronco rotondo lattiginoso quasi umano. L'acacia sa profilarsi come un chimerico fumo. Le stelle danzavano sul poggio deserto. Nessuno viene per la strada. Mi piace dai balconi guardare la campagna deserta, abitata da alberi sparsi, anima della solitudine forgiata di vento. Oggi che il cielo e il paesaggio erano così dolci dopo la pioggia, pensavo alle signorine di Maupassant e di Jam, chi nell'ovale pallido sulla tappezzeria memore e sulle stampe. Il fiume riprende la sua cantilena. Vado via. Guardo ancora la finestra. La costa è un quadretto d'oro nello squittire dei falchi. Presso Campigno, 26 settembre. Per rendere il paesaggio, il paese vergine che il fiume docile a valle solo riempie del suo rumore di tremiti freschi, non basta la pittura. Ci vuole l'acqua, l'elemento stesso, la melodia docile dell'acqua che si stende tra le forre all'ampia rovina del suo letto, che dolce come l'antica voce dei venti incalza verso le valli in curve regali, poiché essa è qui veramente la regina del paesaggio. Val d'Hervé è una costa interamente alpina che scende a tratti a dirupi e getta sull'acqua il suo piedistallo come la zanna del leone. L'acqua volge con tonfi chiari e profondi, lasciando l'alto scenario pastorale di grandi alberi e colline. Ecco le rocce, strati su strati, monumenti di tenacia solitaria che consolano il cuore degli uomini. E dolce mi è sembrato il mio destino fuggitivo al fascino dei lontani miraggi di ventura che ancora arridono dai monti azzurri. E a udire il sussurrare dell'acqua sotto le nude rocce, fresca ancora delle profondità della terra. Così conosco una musica dolce nel mio ricordo senza ricordarmene neppure una nota. So che si chiama la partenza o il ritorno. Conosco un quadro perduto tra lo splendore dell'arte fiorentina con la sua parola di dolce nostalgia. È il figliol prodigo all'ombra degli alberi della casa paterna. Letteratura? Non so. Il mio ricordo? L'acqua è così. dopo gli sfondi spirituali senza spirito, dopo l'oro crepuscolare, dolce come il canto dell'onnipresente tenebra è il canto dell'acqua sotto le rocce, così come è dolce l'elemento nello splendore nero degli occhi delle vergini spagnole e come le corde delle chitarre di Spagna. Ribera, dove vidi le tue danze arieggiate di secchi accordi, il tuo satiro aguzzo alla danza dei vittoriosi accordi? E incontro l'altra tua faccia, il cavaliere della morte, l'altra tua faccia, cuore profondo, cuore danzante, satiro cinto di pampini danzante nella sacra oscenità di Sileno, nude scheletriche stampe sulla rozza parete in un meriggio torrido, fantasmi della pietra. Ascolto, le fontane hanno taciuto nella voce del vento, dalla roccia cola un filo d'acqua in un incavo, il vento allenta e raffrena il morso del lontano dolore. Ecco, son volto. Tra le rocce crepuscolari una forma nera cornuta immobile mi guarda, immobile, con occhi d'oro. Laggiù nel crepuscolo la pianura di Romagna. Oh donna sognata, donna adorata, donna forte, profilo nobilitato di un ricordo di immobilità bizantina, in linee dolce potenti, testa nobile e mitica, dorata dell'enigma delle sfingi. Occhi crepuscolari in paesaggio di torri, là sognati sulle rive della guerreggiata pianura, sulle rive dei fiumi bevuti dalla terra avida, là dove si perde il grido di Francesca. Dalla mia fanciullezza una voce liturgica risuonava in preghiera lenta e commossa. E tu da quel ritmo sacro a me commosso sorgevi, già inquieto di vaste pianure, di lontani miracolosi destini. Risveglia la mia speranza sull'infinito della pianura o del mare sentendo aleggiare un soffio di grazia. Nobiltà carnale e dorata, profondità dorata degli occhi, guerriera, amante, mistica, benigna di nobiltà umana, antica Romagna. L'acqua del mulino corre piana e invisibile nella gora, rivedo un fanciullo, lo stesso fanciullo laggiù steso sull'erba, sembra dormire, ripenso alla mia fanciullezza, quanto tempo è trascorso da quando i bagliori magnetici delle stelle mi dissero per la prima volta dell'infinità delle morti. Il tempo è scorso, si è addensato, è scorso. Così come l'acqua scorre, immobile per quel fanciullo, lasciando dietro a sé il silenzio, la gora profonda e uguale, conservando il silenzio come ogni giorno l'ombra. Quel fanciullo o quella immagine proiettata dalla mia nostalgia? Così immobile laggiù, come il mio cadavere. Marradi, antica volta, specchio velato. Il mattino arride sulle cime dei monti, in alto, sulle cuspidi di un triangolo desolato, si illumina il castello, più alto e più lontano. Venere passa, in barroccio, accoccolata per la strada conventuale, il fiume si snoda per la valle, rotto e muggente a tratti, canta e riposa in larghi specchi d'azzurro, e più veloce trascorre le mura nere. Una cupola rossa ride lontana con il suo leone. E i campanili si affollano e nel nereggiare inquieto dei tetti al sole una lunga veranda che ha messo un commento variopinto di archi. Presso Marradi, ottobre. Son capitato in mezzo a buona gente, la finestra della mia stanza che affronta i venti, e là è il figlio, povero uccellino dai tratti dolci e dall'anima indecisa, povero uccellino che trascina una gamba rotta, e il vento che batte alla finestra dall'orizzonte annuvolato i monti lontani ed alti, il rombo monotono del vento. Lontano è caduta la neve. La padrona zitta mi rifà il letto, aiutata dalla fanticella, monotona dolcezza della vita patriarcale. Fine del pellegrinaggio. Immagini del viaggio e della montagna. Poi che nella sorda lotta notturna la più potente anima seconda ebbe frante le nostre catene, noi ci svegliammo piangendo ed era l'azzurro mattino, come ombre d'eroi veleggiavano, dell'alba non ombre nei puri silenzi, dell'alba nei puri pensieri, non ombre, dell'alba non ombre, piangendo, giurando noi fede all'azzurro. Pare la donna che siede pallida giovine ancora, sopra dell'erta ultima presso la casa antica. Avanti a lei incerte si snodano le valli verso le solitudini alte degli orizzonti. La gentile canuta il cuculo sente a cantare e il semplice cuore provato negli anni alle melodie della terra ascolta quieto. Le note giungono, continue e ambigue come in un velo di seta. Da selve oscure il torrente sorte ed in torpidi gorghi la chiostra di rocce, lambe ed involge aereo cilestrino. E il cuculo cola più lento due note velate nel silenzio azzurrino. L'aria ride, la tromba a valle i monti squilla, la massa degli scorridori si scioglie. A vivi lanci i nostri cuori balzano e grida ed oltrevarca i ponti. E dalle altezze agli infiniti albori, vigili, calan trepidi pei monti, tremuli e vaghi nelle vive fonti, gli echi dei nostri due sommessi cuori. Hanno varcato in lunga teoria, nell'aria non so qual bacchico canto, salgono e dietro a loro il monte introna. E si distingue il loro verde canto. Andar dell'acqua ai gorghi per la china valle nel sordo mormorar sfiorato, seguire un'ala stanca per la china valle che batte e volge, desolato andar per valli, infin che in azzurrina serenità dall'aspre rocce dato un borgo in grigio e vario torreggiare all'alterno pensier pare e dispare sovra l'arido sogno serenato. Oh, se come il torrente che rovina e si riposa nell'azzurro eguale, se tale alle tue mura la proclina anima, al nulla nel suo andar fatale, se alle tue mura in pace cristallina tender potessi in una pace uguale e il ricordo specchiar di una divina serenità perduta, o tu immortale anima, o tu. La messe, intesa al misterioso coro del vento, in vie di lunghe onde tranquille, muta e gloriosa per le mie pupille, discioglie il grembo delle luci d'oro. O speranza, a mille splendono nell'estate i frutti. Un coro che è incantato e al suo murmure canoro che vive per miriadi di faville. Ecco la notte, ed ecco vigilarmi e luci, ed io lontano e solo, quieta è la messe, verso l'infinito, quieto è lo spirito, vanno muti carmi alla notte intendo, solo ombra che torna, che era dipartito. Viaggio a Montevideo. Io vidi dal ponte della nave i colli di Spagna svanire nel verde, dentro il crepuscolo d'oro la bruna terra celando come una melodia, d'ignota scena fanciulla sola come una melodia, blu, sulla riva dei colli ancora tremare una viola. Illanguidiva la sera celeste sul mare, pure i dorati silenzi ad ora dell'ale varcaron lentamente in un azzurreggiare, lontani tinti dei vari colori, dai più lontani silenzi, nella celeste sera varcaron gli uccelli d'oro. La nave già cieca varcando, battendo la tenebra coi nostri naufraghi cuori, battendo la tenebra l'ale celeste sul mare. Ma un giorno salirono sopra la nave le gravi matrone di Spagna, dagli occhi torbidi angelici, dai seni gravidi di vertigine. Quando, in una baia profonda di un'isola equatoriale, in una baia tranquilla e profonda, assai più del cielo notturno, noi vedemmo sorgere nella luce incantata una bianca città addormentata. Ai piedi dei picchi altissimi dei vulcani spenti nel soffio torbido dell'equatore, finché dopo molte grida e molte ombre in un paese ignoto, dopo molto cigolio di catene e molto acceso fervore, noi lasciammo la città equatoriale verso l'inquieto mare notturno. Andavamo per giorni e per giorni. Le navi gravi di vele molli di caldi soffi incontro passavano lente. Sì presso di sul Cassero a noi ne appariva bronzina una fanciulla della razza nuova, occhi lucenti e le vesti al vento. Ed ecco, selvaggia alla fine di un giorno che apparve, la riva selvaggia là giù sopra la sconfinata marina, e vidi come cavalle vertiginose che si scioglievano le dune verso la prateria senza fine, deserta senza le case umane, e noi volgemmo fuggendo le dune che apparve su un mare giallo della portentosa dovizia del fiume, del continente nuovo la capitale marina. Limpido, fresco ed elettrico era il lume della sera, e là le alte case parevan deserte laggiù sul mar del pirata, della città abbandonata tra il mare giallo e le dune. Fantasia su un quadro d'ardengo soffici. Faccia, zigzag anatomico che oscura la passione torva di una vecchia luna che guarda sospesa al soffitto in una taverna Café Chantant d'America. La rossa velocità di luci funambola che tanga spagnola cinerina isterica in tango di luci si disfà. Che guarda nel Café Chantant d'America, sul piano martellato, tre fiammelle rosse si sono accese da sé. Firenze, Uffizi. Entro dei ponti tuoi multicolori, l'Arno presago quietamente arena, e in riflessi tranquilli frange appena archi severi tra sfiorir di fiori. Azzurro l'arco dell'intercolonno, trema rigato tra i palazzi eccelsi. Candide righe nell'azzurro, persi voli, su bianca gioventù in colonne. Batte botte, nella nave che si scuote, con le navi che percuote, di un'aurora sulla prora splende un occhio incandescente. Il mio passo solitario beve l'ombra per il che. Nella luce uniforme dalle navi alla città, solo il passo che alla notte solitario si percuote per la notte, dalle navi solitario ripercuote. Così vasta, così ambigua per la notte, così pura. L'acqua, il mare che ne esala, alle rotte, nella notte, batte, cieco per le rotte, dentro l'occhio disumano della notte di un destino, nella notte più lontano, per le rotte della notte, il mio passo batte, botte. Firenze. Fiorenza giglio di potenza virgulto primaverile, le mattine di primavera sull'Arno, la grazia degli adolescenti, che non è grazia al mondo che vinca tua grazia d'aprile. Vivo vergine continuo alito, fresco che vivifica i marmi e fa nascere Venere botticelliana, i pollini del desiderio gravi da tutte le forme scultoree della bellezza, l'alto cielo spirituale, le linee delle colline che vagano, insieme alla nostalgia acuta di dissolvimento alitata dalle bianche forme della bellezza, mentre pure nostra è la divinità del sentirsi oltre la musica, nel sogno abitato di immagini plastiche. L'Arno qui ancora ha tremiti freschi, poi lo occupa un silenzio dei più profondi, nel canale delle colline basse monotone, toccando le piccole città etrusche, uguale oramai sino alle foci, lasciando i bianchi trofei di Pisa, il duomo prezioso traversato dalla trave colossale che chiude nella sua nudità un così vasto soffio marino. Assigna nel ronzio musicale e assonnante ricordo quel profondo silenzio. Il silenzio di un'epoca sepolta, di una civiltà sepolta, è come una fanciulla etrusca possa rattristare il paesaggio. Nel vico centrale osterie malfamate, botteghe di rigattieri, bislacchi ottoni disparati. Un'osteria sempre deserta di giorno mostra la sera dietro la vetrata un affaccendarsi di figure losche. Grida e richiami beffardi e brutali si spandono per il vico quando qualche avventore entra. In faccia nel vico breve e stretto c'è una finestra, unica, ad inferriata, nella parete rossa corrosa di un vecchio palazzo, dove dietro le sbarre si vedono affacciati dei visi ebeti di prostitute disfatte a cui il belletto dà un aspetto tragico di pagliacci. Quel passaggio deserto, fetido di un orinatoio, della muffa dei muri corrosi, ha per sola prospettiva in fondo l'osteria. I pagliacci ritinti sembrano seguire curiosamente la vita che si svolge dietro l'invetriata, tra il fumo delle pastasciutte acide, le risa dei mantenuti dalle femmine e i silenzi improvvisi che provoca la squadra mobile. Tre minorenni dondolano monotonamente le loro grazie precoci. Tre tedeschi irsuti, sparuti e scalcagnati seggono compostamente attorno ad un litro. Uno di loro, dalla faccia di Cristo, è rivestito da una tunica da prete che tiene raccolta sulle ginocchia. Fumo acre delle pastasciutte, tinnire di piatti e di bicchieri, risa dei maschi dalle dita piene di anelli che si lasciano accarezzare dalle femmine ora che hanno mangiato. Passano le serve nell'aria acre di fumo gettando un richiamo musicale. Paste! In un quadro a bianco e nero una ragazza bruna con una chitarra mostra i denti e il bianco degli occhi appesa in alto, serenata sui lungarni. Mi investe un soffio stanco dalle colline fiorentine, porta un profumo di corolle smorte, misto a un odor di lacche, di vernici, di pitture antiche, percettibile appena. Merezkowski. Faenza, una grossa torre barocca, dietro la ringhiera una lampada accesa. Appare sulla piazza, al capo di una lunga contrada, dove tutti i palazzi sono rossi e tutti hanno una ringhiera corrosa. Le contrade alle svolte sono deserte. Qualche matrona piena di fascino. Nell'aria si accumula qualche cosa di danzante. Ascolto. La grossa torre barocca, ora accesa, mette nell'aria un senso di liberazione. L'occhio dell'orologio trasparente in alto appare, che illumina la sera, le frecce dorate, una piccola Madonna bianca si distingue già dietro la ringhiera con la piccola lucerna corrosa accesa. E già la grossa torre barocca è vuota e si vede che porta illuminati i simboli del tempo e della fede. La piazza ha un carattere di scenario nelle logge ad archi bianchi, leggeri e potenti. Passa la pescatrice povera nello scenario di caffè concerto, rete sul capo e le spalle di velo nero tenue, fitto di neri punti per la piazza viva di archi leggeri e potenti. Accanto una rete nera a triangolo, a berretta, ricade su una spalla che si schiude. Un viso bruno aquilino d'indovina, uguale alla notte di Michelangelo. Ofelia, la mia ostessa, è pallida e le lunghe ciglia le frangiano appena gli occhi. Il suo viso è classico e insieme avventuroso. Osservo che ha le labbra morse, dello spagnolo, della dolcezza italiana, e insieme il ricordo, il riflesso dell'antica gioventù latina. Ascolto i discorsi. La vita ha qui un forte senso naturalistico, come in Spagna. Felicità di vivere in un paese senza filosofia. Il museo. Ribera e Baccarini. Nel corpo dell'antico palazzo rosso affocato nel meriggio sordo, l'ombra cova sulla rozza parete delle nude stampe scheletriche. Dürer, Ribera. Ribera, il passo di danza del satiro aguzzo su sileno osceno briaco. L'eco dei secchi accordi chiaramente rifluente nell'ombra che è sorda. Ragazzine alla marinara, le lisce gambe lattee che passano a scatti strisciando spinte da un vago prurito bianco. Un delicato busto di adolescente, luce gioconda dello spirito italiano, sorride. Una bianca purità virginea conservata nei delicati incavi del marmo. Grandi figure della tradizione classica chiudono la loro forza tra le ciglia. Dualismo. Lettera aperta a Manuelita Echegarray. Voi, adorabile creola dagli occhi neri e scintillanti come metallo in fusione, voi, figlia generosa della prateria nutrita di aria vergine, voi tornate ad apparirmi col ricordo lontano, anima dell'oasi dove la mia vita ritrovò un istante il contatto con le forze del cosmo. Io vi rivedo, Manuelita, il piccolo viso armato dell'ala battagliera del vostro cappello, la piuma di struzzo avvolta e ondulante eroicamente, i vostri piccoli passi pieni di slancio contenuto sopra il terreno delle promesse eroiche. Tutta mi siete presente, esile e nervosa. La cipria sparsa come neve sul vostro viso consunto da un fuoco interno, le vostre vesti di rosa che proclamavano la vostra verginità come un'aurora piena di promesse. E ancora il magnetismo di quando voi chinaste il capo, voi fiore meraviglioso di una razza eroica, mi attira, nonostante il tempo, ancora verso di voi. Eppure, Manuelita, sappiatelo se lo potete, io non pensavo a voi. Io mai non ho pensato a voi. Di notte nella piazza deserta, quando nuvole vaghe correvano verso strane costellazioni, alla triste luce elettrica io sentivo la mia infinita solitudine. La prateria si alzava come un mare argentato agli sfondi e i rigetti di quel mare, miseri, uomini feroci, uomini ignoti, chiusi nel loro cupo volere, storie sanguinose subito dimenticate che rivivevano improvvisamente nella notte. Tessevano attorno a me la storia della città giovine e feroce, conquistatrice implacabile, ardente di un'acre febbre di denaro e di gioie immediate. Io vi perdevo allora, Manuelita, perdonate, tra la turba delle signorine elastiche dal viso molle, inconsciamente feroce, violentemente eccitante, tra le due bande di capelli lisci, nell'immobilità delle dee della razza. Il silenzio era scandito dal trotto monotono di una pattuglia. E allora il mio anelito infrenabile andava lontano da voi, verso le calme oasi della sensibilità della vecchia Europa, e mi si stringeva con violenza il cuore. Entravo, ricordo, allora nella biblioteca, io che non potevo, Manuelita, io che non sapevo pensare a voi. Le lampade elettriche oscillavano lentamente. Su dalle pagine risuscitava un mondo defunto. Sorgevano immagini antiche che oscillavano lentamente con l'ombra del paralume, e sovra il mio capo gravava un cielo misterioso, gravido di forme vaghe, rotto a tratti da gemiti di melodramma. Larve che si scioglievano mute per rinascere a vita inestinguibile nel silenzio pieno delle profondità meravigliose del destino. Dei ricordi perduti, delle immagini si componevano già morte, mentre era più profondo il silenzio. Rivedo ancora Parigi, Place d'Italie, le baracche, i carrozzoni, i magri cavalieri dell'irreale, dal viso essiccato, dagli occhi perforanti di nostalgie feroci, tutta la grande piazza ardente di un concerto infernale stridente e irritante. Le bambine dei bohemiens, i capelli sciolti, gli occhi arditi e profondi congelati in un languore ambiguo amaro attorno dello stagno liscio e deserto. E infine lei, dimentica, lontana, l'amore, il suo viso di zingara nell'onda dei suoni e delle luci che si colora di un incanto irreale. E noi in silenzio attorno allo stagno pieno di chiarori rossastri. E noi ancora, stanchi del sogno, vagabondare a caso per quartieri ignoti fino a stenderci stanchi sul letto di una taverna lontana, tra il soffio caldo del vizio, noi là nell'incertezza e nel rimpianto colorando la nostra voluttà di riflessi irreali. E così lontane da voi passavano quelle ore di sogno, ore di profondità mistiche e sensuali che scioglievano in tenerezze i grumi più acri del dolore, ore di felicità completa che aboliva il tempo e il mondo intero, lungo sorso alle sorgenti dell'oblio. E vi rivedevo, Manuelita, poi, che vigilavate pallida e lontana, voi anima semplice chiusa nelle vostre semplici armi. So, Manuelita, voi cercavate la grande rivale, so, la cercavate nei miei occhi stanchi che mai non vi appresero nulla. Ma ora, se lo potete, sappiate. Io dovevo restare fedele al mio destino. Era un'anima inquieta quella di cui mi ricordavo sempre quando uscivo a sedermi sulle panchine della piazza deserta sotto le nubi in corsa. Essa era per cui solo il sogno mi era dolce. Essa era per cui io dimenticavo il vostro piccolo corpo convulso nella stretta del guanciale, il vostro piccolo corpo pericoloso, tutto adorabile di snellezza e di forza. Eppure vi giuro, Manuelita, io vi amavo e vi amo e vi amerò sempre di più di qualunque altra donna dei due mondi. Sogno di prigione. Nel viola della notte odo canzoni bronzee. La cella è bianca, il giaciglio è bianco. La cella è bianca, piena di un torrente di voci che muoiono nelle angeliche cune, delle voci angeliche bronzee è piena la cella bianca. Silenzio, il viola della notte. In rabeschi dalle sbarre bianche il blu del sonno. Penso ad Anica, stelle deserte sui monti nevosi, strade bianche deserte. Poi chiese di marmo bianche, nelle strade Anica canta, un buffo dall'occhio infernale la guida che grida. Ora il mio paese tra le montagne. Io al parapetto del cimitero davanti alla stazione che guardo il cammino nero delle macchine su, giù. Non è ancor notte, silenzio occhiuto di fuoco, le macchine mangiano, rimangiano il nero silenzio nel cammino della notte. Un treno si sgonfia, arriva in silenzio, è fermo. La porpora del treno morde la notte, dal parapetto del cimitero le occhiaie rosse che si gonfiano nella notte. Poi tutto, mi pare, si muta in rombo. Da un finestrino in fuga io calzo le braccia nella luce. Il treno mi passa sotto, rombando come un demonio. La giornata di un nevrastenico. Bologna. La vecchia città dotta e sacerdotale era avvolta di nebbie nel pomeriggio di dicembre. I colli trasparivano più lontani sulla pianura percossa di strepiti. Sulla linea ferroviaria si scorgeva vicino, in uno scorcio falso di luce plumbea, lo scalo delle merci. Lungo la linea di circonvallazione passavano pomposamente sfumate figure femminili, avvolte in pellicce, i cappelli copiosamente romantici, avvicinandosi a piccole scosse automatiche, rialzando la gorgiera carnosa come volatili di bassa corte. Dei colpi sordi, dei fischi dallo scalo accentuavano la monotonia diffusa nell'aria. Il vapore delle macchine si confondeva con la nebbia, i fili si appendevano e si riappendevano ai grappoli di campanelle dei pali telegrafici che si susseguivano automaticamente. Dalla breccia dei bastioni rossi corrosi nella nebbia si aprono silenziosamente le lunghe vie. Il malvagio vapore della nebbia intristisce tra i palazzi velando la cima delle torri, le lunghe vie silenziose e deserte come dopo il saccheggio. Delle ragazze tutte piccole, tutte scure, artificiosamente avvolte nella sciarpa, traversano saltellando le vie, rendendole più vuote ancora. E nell'incubo della nebbia, in quel cimitero, esse mi sembrano a un tratto tanti piccoli animali, tutte uguali, saltellanti, tutte nere, che vadano a covare in un lungo letargo un loro malefico sogno. Numerose le studentesse sotto i portici. Si vede subito che siamo in un centro di cultura. Guardano a volte con l'ingenuità di Ofelia, tre a tre, parlando a fior di labbra. Formano sotto i portici il corteo pallido e interessante delle grazie moderne, le mie colleghe che vanno a lezione. Non hanno l'arduo sorriso d'annunziano palpitante nella gola come le letterate, ma più raro un sorriso e più severo, intento e masticato, di prognosi riservata, le scienziate. Caffè. È passata la russa. La piaga delle sue labbra ardeva nel suo viso pallido. È venuta ed è passata portando il fiore e la piaga delle sue labbra. Con un passo elegante, troppo semplice e troppo conscio, è passata. La neve seguita a cadere e si scioglie indifferente nel fango della via. La sartina e l'avvocato ridono e chiacchierano. I cocchieri imbacuccati tirano fuori la testa dal bavero come bestie stupite. Tutto mi è indifferente. Oggi risalta tutto il grigio monotono e sporco della città. Tutto fonde come la neve in questo pantano. E in fondo sento che è dolce questo dileguarsi di tutto quello che ci ha fatto soffrire. Tanto più dolce che presto la neve si stenderà ineluttabilmente in un lenzuolo bianco. E allora potremo riposare in sogni bianchi ancora. C'è uno specchio avanti a me e l'orologio batte. La luce mi giunge dai portici attraverso le cortine della vetrata. Prendo la penna, scrivo. Cosa non so. Ho il sangue alle dita. Scrivo. L'amante nella penombra si aggraffia al viso dell'amante per scarnificare il suo sogno, eccetera. Ancora per la via. Tristezza acuta. Mi ferma il mio antico compagno di scuola, già allora bravissimo ed ora di già in belle lettere guercio professor purulento. Mi tenta, mi confessa con un sorriso sempre più lercio. Conclude. Potresti provare a mandare qualcosa all'amore illustrato. Via. Ecco inevitabile sotto i portici lo sciame aeroplanante delle signorine intellettuali che ride e fa glu glu mostrando i denti, in caccia, sembra, di tutti i nemici della scienza e della cultura che va a frangere ai piedi della cattedra. Già è l'ora. Vado a infangarmi in mezzo alla via. L'ora che l'illustre somiero rampa con il suo carico di nera scienza catalogale. Sull'uscio di casa mi volgo e vedo il classico, baffuto, colossale emissario. Ah, i diritti della vecchiezza. Ah, quanti maramaldi. Notte. Davanti al fuoco lo specchio. Nella fantasmagoria profonda dello specchio, i corpi ignudi avvicendano muti e i corpi lassi e vinti nelle fiamme inestinte e mute e come fuori del tempo i corpi bianchi stupiti inerti nella fornace opaca, bianca, dal mio spirito esausto, silenziosa, si sciolse. Eva si sciolse e mi risvegliò. Passeggio sotto l'incubo dei portici, una goccia di luce sanguigna, poi l'ombra, poi una goccia di luce sanguigna, la dolcezza dei seppelliti. Scompaio in un vicolo, ma dall'ombra sotto un lampione si imbianca un'ombra che ha le labbra tinte. O Satana, tu che le troie notturne metti in fondo ai quadrivi, o tu che dall'ombra mostri l'infame cadavere di Ofelia, o Satana, abbi pietà della mia lunga miseria. Fine del capitolo terzo.